A Pane Burro Rock and Roll, sono le 7 e 30 minuti primi. Let the sunshine, facciamolo splendere anche quest'oggi sotto pioggerella Milano, eh? Benvenuti, benvenute. Let the sunshine, let the sunshine, the sunshine. Che splenda per le nostre macchine qui. Per i nostri computer rock. Una strombazzata a Tommy, patentato 332. Ha bisogno della strombazzata per salvarsi la pelle dall'interrogazione su Dante. Sta in una botte di ferro. Si strombazza volentieri anche sere da Milano. Tra poco esame della teoria della patente. Ma quale? Quella per la macchina? Ma non preoccuparti, non è come per la patente davvero rock. È molto più semplice. Strombazzata al gruppo d'ascolto. Adotta anche tu un lampione crepuscolare che si spegne. Lancio un appello a tutti i radioascoltatori e DJ di Rock FM. Patentato 120 con orgoglio. O da quando abbiamo distribuito le prime patenti da vero rocker, è sicuro che chi le ha ricevute si è messo peggio di prima, eh. Mentre via mail devo fare assolutamente un saluto al piccolissimo Umberto, che ieri ha compiuto il suo complimezzanno. Buon complimezzanno, Umberto! Quanto mi piacerebbe anche a me compiere un complimezzanno. Tra l'altro manca poco al mio compleanno. Vi siete preparate qualche dono da farmi? Da spedire in via Locatelli 1? Sarebbe carino da parte vostra. Devo però, in appendice al compleanno di Umberto, salutare anche il padre, Federico. Ci scrive da Livorno una mail molto interessante, nella quale allega anche un filmato. Nel filmato si vede lo sforzo del padre Federico è con il piccolo Umberto che compie il primo complimezzanno, quindi avete capito quanto è piccolino, sulle sue ginocchia, e il padre Federico gli fa fare la batteria. Caro Federico, apprezziamo molto che tu stia cercando di far crescere il tuo figlio in maniera rock, ma sappi che quel filmato che mi hai spedito è quasi da telefono azzurro, ok? Cerchiamo di fare le cose fatte bene. Comunque un bacione sia a te che a lui. Viva il rock! Are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in a, like, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me, hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's, like, his totally bliss. He goes, like, bag your face, I'm sure. Valley girl, she's a valley girl. Valley girl, she's a valley girl. Okay, fine, for sure, she's a valley girl. So sweet and pure. Okay, fine. Really sad. Valley girl. Like my English teacher, he's like Valley girl. He's like Mr. Boo Boo. Valley girl. We're talking Lord God King Boo Boo. Valley girl. I am so sure he's like barf, like, barf me out, gag me with a spoon. Best idea to cross her mind has something to do with where to find a pair of jeans to fit her butt and where to get her toenails cut. So, like, I go into this, like, salon place, you know, and I want, like, to get my toenails done, and the lady, like, goes, oh my god, your toenails are, like, so grody. It was, like, really embarrassing. She's like, oh my god, like, bag those toenails. I'm like, sure. She goes, I don't know if I can handle this, you know. I was like, really embarrassed. Like a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like, those things that, like, stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But, like, I don't know. It's gonna be cool, you know. I'll buy some, like, see my smile. It'll be, like, really cool. Except my, like, teeth are, like, too small. But no biggie. So awesome. It's, like, tubular, you know. Well, I'm not, like, really ugly or anything. It's just, like, I don't know. You know me. I'm, like, into the, like, the clean stuff, like, Pac-Man and, like, I don't know, like, my mother, like, makes me do the dishes. It's, like, so gross. Like, all the stuff, like, sticks to the plate. And it's, like, somebody else's food, you know? It's, like, grody, grody to the max, I'm sure. It's, like, really nauseating. Like, bark out, gag me with a spoon. Gross. I am sure. Totally. Uno dei nostri appuntamenti preferiti, lo sguardo di Rock FM sui più piccoli, sui ragazzi che stanno crescendo e crescono sulla strada del rock and roll. Sulla strada della stranissima perdizione. Io ho un grosso dubbio, perché da qualche giorno ormai che ci siamo affezionati a questo francè, non riesco a capire, con questo forte accento marchigiano, sì, come faccia ad ascoltare la radio fino nelle Marche. Spadino dovrebbe averlo rintracciato. Pronto, francè? Bentrovato. Ben trovato. Senti, fatti fare una domanda al volo quest'oggi, perché non ti abbiamo mai chiesto di dove sei con questo accento marchigiano. Come fai a sentire Rock FM nelle Marche? Ma io mica sono nelle Marche. E da dove ascolti, Francesco? Io sono da Milano. Ma nel senso che vivi a Milano? No, sempre Milano, sono milanese. C'ho la casa marchigiana, mi insegnavo a parlare, ma anche insegnavo metal. Aspetta, c'è una... si chiama Pamela Anderson. No, la tata si chiama Pamela Anderson. Sì, Pamela Anderson Marinelli. Pamela Anderson è il nome. Ed è una tata che ti ha insegnato il metal. No, mi ha insegnato, mi ha fatto del metal, mi ha fatto anche rocce. No, come? Ma queste non mi interessano. Cioè, a te interessa solo il metal? Metal, mi ha insegnato il metal, Motley Crue, capito? Poi mi ha insegnato Megadeth e tante cose. E mi ha insegnato anche a parlare marchigiano. Ho capito, ma tra l'altro, però, tornando all'argomento dell'altro giorno dei bulli a scuola, magari è proprio perché parli un po' in maniera diversa dagli altri tuoi compagni che ti prendono in giro. Sei un diverso. Ma loro non sanno parlare. che mi frega, tanto che... No, non è per quello, è che io metal, invece loro ascoltano la musica. Invece a me non piace. Su questo, Francè, hai veramente ragione. Ci prometti che un giorno o l'altro ci presenti Pamela Anderson Marinelli? La tata punk. Tata, bene, tata, solo che buona, no che buona, bella, buona, brava. È buona, brava, sì, no, l'abbiamo capito, anche perché a te non interessa. Sembra... No, a me non frega niente, sì, se faccio, a me non importa niente, è metal. Ne avevamo già parlato, grazie mille. Come Francesco. Ma te quando pulisce fai pulizie? Sì. Quando Pamela Anderson fa le pulizie, sì, la casa mia, sì, che si mette in completo i porchi e nero pelle, sì, metal. Sì, abbiamo capito. Io sono contento. Ma quando sale sulla scala della libreria, tu stai sotto a sbirciare, di la verità? No, che mi frega niente, più altro che per distrarmi mi mette Bon Jovi, capito? Oh, ho capito. Abbiamo capito benissimo. Francesco, mi raccomando, vai a scuola oggi, eh? Va bene, sì. Sì. Va bene. Fatti accompagnare dalla Tata Punk. Ma vacci, vacci, vacci. Ciao Francesco. Come l'Anderson Marinelli, sì, qua. Ciao, ciao. Salutacela. E beh, che c'è? Love at you all, la chitarra di Jeff Healey e un po' è la mia fatta con la bocca. Mi sto allenando, per fare anch'io il musicista rock con la bocca. While my guitar gently weeps. E la domanda è sempre la stessa: ma perché nessuno vi ha mai insegnato come involvere il vostro amore? E io me lo chiedo ancora. Perché nessuno mi ha mai insegnato? Perché alle elementari non c'è un corso per involuzione dell'amore? Ma. Domande che continueremo a porci da Rock FM, 7:46 minuti primi. A proposito di musica rock con la bocca, vi ricordo, aperte le iscrizioni al 335-100-7777 per il provino. Avevamo anche una segnalazione via SMS di un gruppo giapponese che ci spia le rubriche, segnalano. Ha trovato questo gruppo giapponese che suona con la bocca. I Dochaka sono anche bravi a fare le cover degli Slayer. Grazie mille per la segnalazione, sguinzaglierò la redazione a rintracciare gli Slayer fatti con la bocca. Un saluto particolare a Gianfranco, il mitico, unico radioascoltatore napoletano. Lo ringrazio perché, tra l'altro, ieri ha partecipato anche alla trasmissione televisiva su Rock TV. E ringrazio chiunque ha partecipato alla trasmissione di ieri perché è stata fighissima. Ve l'avevo annunciato a voi, avrei fatto un bed-in con l'operaio del rock and roll e è stata roba figa, roba forte. Abbiamo sperimentato la total communication. Tenteremo di rifare l'esperimento via radio, ma è un po' più complicato, quindi ci stiamo informando. Grazie Gianfra! Allora, saluti a Davide dal bar, che a proposito di musica rock con la bocca, lui chiede se ci si può iscrivere facendo musica rock con l'altra bocca. Ma perché dovete buttare sempre tutto così alle ortiche? Mai fare una cosa seria? Vabbè, grazie Davide. Un saluto a Lanci 254. È la patente. Felicità è sapere che il freno sta ancora buono. È una felicità, una centa risparmiata. Gioite come una centa. Ma dai, una centa. Aggiornamenti sui numeri dell'otto, se no la Sciura Carla s'arrabbia. Allora, Sciura Carla, non sono usciti i numeri di ieri, neanche quelli che ha dato lei. Però Carlo ci segnala che quelli della frequenza milanese sono usciti su Napule. Signora Carla, mi raccomando, l'attendiamo a Rock FM. Quando vuole intervenire ce lo faccia sapere, che noi stiamo qui ad aspettare lei, ok? Si prosegue col buon rock and roll, Ramones! Rock the way beach. We can hit you right to rock the way beach. Rock, rock, rock. non chiederti cosa pane, burro e rock and roll può fare per te, ma cosa tu puoi fare per pane, burro e rock and roll. Ciao Andrea! Ciao Ariele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Ormai stiamo raggiungendo livelli professionisti, Andrea, eh? Io non ti annuncio neanche più, ti lancio in diretta così. Fantastico. Per chi non lo riconoscesse così, solo dalla voce, è il nostro patentato 147, colui che ci aiuta nella conquista degli ascolti radiofonici spiando la concorrenza. Si chiama spionaggio a casa mia. Esatto. Sono anche su MySpace, se qualcuno volesse. A proposito, scusa, l'SMS mi arriva adesso. Ah. Ariele, ma ieri non hai accettato la mia amicizia su MySpace, maledetto. Allora sia chiaro tra me e tutti voi là fuori, io di come funzioni MySpace non ne voglio sapere nulla. Cioè sta storia amici non amici, io so fuori. Quindi io invito ad andare al servizio, ma non, cioè, non sono io che, cioè, io non ci capisco una mazza. È colpa della redazione, qualsiasi cosa sia. Va bene Andrea. Allora torniamo alla concorrenza. Sì. Da questa settimana eri sotto alle radio locali, minori, alle radio più piccole. Abbiamo locali. Esatto, ho dato un'occhiata a Radio Mondo. Sì. Radio Mondo è una radio di Casale Monferrato, comunque Piemonte. Dove abita il mio amico Pollo, che saluto. Ciao Pollo. Benissimo. Vabbè, così. Quindi una radio abbastanza piccola, locale. Il DJ è il DJ Fabio. Ok. Direi che fa una programmazione abbastanza normale. Ma senti, iniziano sì. Anche alla mattina presto come facciamo noi? Sì, parte alle 6:30 direi. Quindi Fabio adesso sta facendo il suo programma, Fabio. Sì, ma diciamo che c'è molta molta musica e pubblicità insieme. Lui proprio. In che senso musica e pubblicità insieme? Cioè un pezzo e una pubblicità? Ma sì, praticamente qualche pezzo, qualche molta pubblicità. Maledetti. Vuol dire che c'hanno i soldi però, E quindi insomma lui comunque fa proprio degli agganci brevissimi durante tutta la trasmissione. Tipo? Ma tipo delle cose che sinceramente fai anche tu, nel senso, allora, no, aspetta, sì. Però l'hai detto sbuffando, come dire, fa delle robe schifose come quelle che fate voi. L'hai detta così, Andrea? No. Beh, in effetti, no, allora, diciamo che lui le fa molto in modo banale. Ah, ecco. È diverso. Ti stai salvando in corner. Tipo? Sì. Tipo gli onomastici, tipo l'almanacco, tipo i compleanni, aggiungi anche l'oroscopo. Guarda, leggo anche negli occhi di Fricantoni un velo di scoraggiamento. Dobbiamo smettere di fare l'almanacco e gli oroscopi. I compleanni del giorno. Ma no, secondo me è come sempre il modo con cui uno fa le cose che è vincente. Poi, grazie. Grazie. Tra l'altro l'oroscopo con in sottofondo un Richard Kleiderman dolcissimo col pianoforte. Sì. E vabbè, questo è un po'. E poi l'informazione, c'è uno spazio anche dedicato all'informazione. Un'altra cosa che ho notato e che secondo me è simile, c'è un'altra cosetta che facciamo anche noi, di fatto è il calendario. Sì. Nel senso che ha detto che è uscito un calendario ideologico. Un calendario? Ideologico. Tibiologico? Con la P di Palermo, pidiologico. E che vuol dire? Allora, dice dal greco pidia natica. Quindi lui era molto imbarazzato nel dire questa cosa, tra l'altro. Perché non voleva dire chiappa. Esatto, infatti la chiama natica e poi lato B della donna. Perché in pratica è un calendario. Il lato B, sì, l'abbiamo capito. Il lato B, cioè non dice assolutamente... Le chiappe, il culo, il dietro, sì. Esattamente, in pratica c'è questo calendario pidiologico, 12 mesi di lati B delle donne, un fotografo toscano, con accurata descrizione morfologica della proprietaria, perché sostanzialmente sostiene che dal lato B della donna si capisce la personalità, eccetera. Mm. Ed è imbarazzatissimo mentre dice questa cosa. Questo è carino. Quindi è un consiglio, dovrei essere anche un po' io imbarazzato. Quando per esempio c'è il camionista Yuri che parla delle donne nude, dovrei fare un po' l'imbarazzo. Potrebbe stare il gioco, potrebbe essere carino. Sì, potremmo anche dire magari di vedere effettivamente questo calendario. Però Fabio non ce l'ha Rosy che sdogana il membro in dire, diciamocelo. Va bene. Siamo molto lontani. Ci siamo capiti. Vabbè. Un'altra cosetta piccolissima, è sempre per dimostrare poi il suo imbarazzo, ha parlato di un'uscita da Singapore motore di un Airbus 380, sembra essere il Boeing più grande mai uscito. E la cosa carina è che non si può fare sesso in volo, perché su questo Boeing ci sono delle suite, però non sono insonorizzate, e quindi non è vietato in modo esplicito fare sesso, perché si sente. Vabbè, lo si può fare silenziosamente, però non ha controbattuto così lui, no? No, lui è rimasta la notizia in modo molto... Questa cosa dell'imbarazzo, sai Andrea, che non so perché, ma ci potremmo lavorare. Ci inventeremo qualcosa. Va bene. L'imbarazzo è rock? Beh, può esserlo. Sì. Cosa? Non è rock, nulla, tutto è rock. Andrea 147, a settimana prossima. Torniamo però a ascoltare roba sulle grandi, un po' più grandi. Dai, sì. Cosa si fa? Io direi di andare sul ruggito, il ruggito del coniglio. Radio 2? Radio 2, esatto. Ahia, mi sa che quelli ci bacchettano, è giunto il momento. Bravo, a settimana prossima. Buon weekend. Ciao a tutti. Ciao. Un'occhiata alla nuova arrivata della gabbia 37, la ballerina. E allora? Erano due, Frigo, due cavie identiche. È un maleficio, una fattura. Quella mi ha già stregato con qualche pozione magica, magari rubata agli umani maledetti. La vedo doppia, capisci? La vedo doppia. Rogna, guarda che sono gemelle omozigote. Non è che ne vedi due, loro sono due. Due gemelle identiche. Gemelle? Identiche? Niente magia? No, gemelle. Interessante. Mai stato con due gemelle. Neanch'io. Ci proviamo? Sì, dai, sono tutta arrapato. Dai.